Ed eccoci qui, buonasera ai colori dell'anima, con me Angelo in regia e Carla e tantissimi nostri amici. Sì, incominciamo a presentare questi nostri ospiti questa sera. Vai Carla, incominciamo dalla tua sinistra. Vi presento Fabio De Franceschi, anche detto Francesco perché mi imbroglio, che viene da Nettuno, vicino Roma. E che è in Belgio da... In Belgio da un anno e mezzo. E dico in Belgio perché sei stato prima... Perché sono stato prima... Allora, sono stato... Prima in Belgio sono stato in Spagna e in Inghilterra. E quando sono venuto in Belgio non sono venuto subito a Bruxelles. Sono stato qualche mese a Leuven. E vi presentiamo anche Irene da... Roma, Rotondo, provincia di Roma. E Dulcis in fondo. Giampaolo dalla provincia di Bari, giovinazzo. Ecco, un piccolo, come dire, una piccola dose per farvi capire di cosa parleremo oggi. Parleremo di storie, di come sopravvive un italiano all'estero e saremo insieme fino alle 22. Qui siamo i colori dell'anima, volevamo ricordarvi il nostro numero di telefono che è lo 02 345 26 56. Se ci volete scrivere una mail, radioalma@swing.be. Per qualsiasi domanda, richiesta, quello che volete. E beh, oggi il tema di oggi è proprio come sopravvive un italiano all'estero. Che tipi di incontri si possono fare a Bruxelles? E Bruxelles, la capitale d'Europa, quindi i tipi di incontri che si possono fare sono degli incroci non possibili, degli incroci che in Italia non avrebbero potuto aver luogo, delle amicizie strane con mezzi che possono avvalersi di mezzi quali la musica, quali il cibo e quali, non lo so, datemi un'idea ragazzi, di cosa, come si possono... Il lavoro anche. La birra. Per noi soprattutto amicizia e cibo. Al primo posto. Come ci siamo incontrati e come vanno avanti le nostre amicizie, i nostri rapporti. E i corsi di francese. E di fiammingo. E diciamo, discutendoci, dicevamo anche che la lontananza della famiglia di ognuno ha un ruolo importantissimo, cioè fa sì che ognuno cerchi nell'altro un po' calore e le relazioni che si creano qui a Bruxelles sono relazioni che crescono molto più rapidamente, sono amicizie più profonde, il tempo che si passa insieme è tantissimo, si condivide a volte tutto il weekend insieme, tutte le sere, e si ricerca calore, affetto. Si mangia, soprattutto si mangia. Ecco. e quindi è magari per sentirsi proprio a casa. Ma perché no? Non abbiamo potuto invitare amici di altre nazionalità per motivi abbastanza evidenti, cioè la lingua, ma Bruxelles ci consente anche di arricchirci, di avere amici che vengono da nazioni assurde che non avremmo mai potuto incontrare in Italia. Appunto abbiamo avuto una ragazza greca che è stata ospite alla trasmissione precedente, finlandesi, norvegesi, chi più ne ha più le Burundi. Baresi, sudamericani, Babbo Natale, di tutto. E niente, volevamo cominciare a raccontarvi la storia di Fabio. Come è arrivato Fabio a Bruxelles? Come sono arrivato? Beh, in aereo, una cosa abbastanza evidente. Sono arrivato in maniera abbastanza casuale. Io in realtà ho studiato 2 anni fa in Inghilterra un master e cercando master lavoro. In? Un master in relazioni del lavoro. Wow. E dovendo cercare lavoro ho cercato insomma un po'. Ma scusa, non hai cercato in Italia, non ho capito. Ci ho provato. E il problema è, insomma, vabbè, adesso non entriamo in discussioni troppo dettagliate. Ma dai, dettagliate, così facile, dai Fabio. Lo so, in Italia mi hanno ricoperto di offerte, ecco, tutti che mi cercavano, contratti multimilionari, però io sono una persona umile certo. E non volevo, insomma, vendermi per dire denaro. Non mi sembra giusto. Quindi il nobile scopo di un lavoro di beneficenza qui a Bruxelles. Esatto, non profit. Assolutamente. Sì, i valori sono tutto. Ecco. E quindi adesso faccio il ricercatore qui prendendo il doppio di quanto prenderebbe il ricercatore in Italia. Complimenti. A parte non lo dire, che se Mario Monti ti ascolta, se mi ti taglia. Ascoltasse mi taglia anche a me. No, e poi vabbè, non entro nel dettaglio anche delle condizioni, insomma, E quindi niente, ho scelto di venire qui per, diciamo, per non perché fossi così tremendamente curioso del Belgio in sé, almeno in partenza, ma diciamo spudoratamente per il lavoro. Ok. E che cosa ti ha fatto conoscere queste persone qua in questa stanza? Il cibo. No, è ovvio. Ci siamo conosciuti, parlando con Giampaolo, ci siamo conosciuti a un vicino Merod, a un aperitivo, se sì. Non mi sbaglio. Dove si mangiava pure, però, secondo me. Aperitivo italiano. Ah, beh. Sì. Aperitivo italiano, un aperitivo come si deve. Serio. E niente, in quell'occasione io ero con Andrea, che non è potuto venire qui, ma gli mandiamo un bacione. Ciao collega, Andrea, ciao Marion. Prima di tutto un amico collega. E un amico collega. Si avvicinava l'inverno e quindi ci chiedevamo come poter sopravvivere l'inverno. E ci siamo detti, vabbè, vediamo un po', proviamo con la musica. Musica, diciamo, che appassiona un po' tutti. Anche come gusti musicali, soprattutto. Per esempio, qual è il tipo di musica che ti piace? Beh, innanzitutto cantautori italiani, Paolo Conte, Caposella, ma anche la canzone d'autore più regionale, ad esempio Matteo Salvatore, che poi è stato un po' la guida del gruppo che abbiamo fatto nascere, grazie anche ad Angelo, a Fabio. E se non sbaglio, Alfonso. Siete stati ospiti di questa trasmissione. Sì, siamo stati ospiti l'anno scorso, se non mi sbaglio. Io personalmente non c'ero, però abbiamo presentato il nostro evento del 10 dicembre scorso. Diciamolo il nome di questo gruppo: I Riso Patate and Folk. Riso Patate and Folk, che abbiamo battezzato nel 10 dicembre 2010. E di cui abbiamo festeggiato il primo compleanno il 10 dicembre scorso, con una grande serata molto partecipata, bellissima, una serata in nome della musica e del cibo, della musica e del buon gusto, del buon gusto in generale, sia come cibo, sia come musica, sia come bellezza fisica. Irene era lì, infatti, sì. Un gruppo di bei ragazzi che li contraddistingue, altrimenti non ci saremmo trovati. E appunto, a dare la bellezza alla serata, c'è stata anche Irene, sì, che ci vuole raccontare come è arrivata qui a Bruxelles. Ma io sono arrivata per caso, ho ricevuto la telefonata mentre ero in spiaggia il 13 d'agosto del 2010. Era una mia amica dell'università che aveva bisogno di qualcuno che organizzasse un workshop alle isole Figi, e che lì per lì pensavo stesse scherzando. In realtà mi ha chiesto: magari vieni su di corsa. Ma sapevi dove erano le isole Figi? Sì, ma in realtà sì, perché avevo visto una trasmissione da piccola vidi questa trasmissione. Mi ricordo l'esame di terza media, mi chiesero dove vorresti andare, qual è il tuo sogno per un viaggio. Dissi appunto le isole Figi. A Bruxelles, dillo, che era sulle Figi. Infatti questo era il mio destino. Allora, in realtà io non sono andata in quell'occasione, sono venuta qui il 16 d'agosto, sono partita in fretta e in furia, e per me è stato traumatizzante, perché sono arrivata qui e c'erano, non so, 8 gradi, ero arrivata con le ballerine, il vestito senza calze, e ho veramente sofferto tantissimo in quei giorni. Sono rimasta 2 settimane, mi sono chiesta come lei potesse vivere qui. E pensavo la mia esperienza fosse, insomma, chiusa. Invece poi mi hanno richiamato, sempre, diciamo, per la stessa società. E mi ero appena laureata, appunto, anch'io in Italia ero lì che mi destreggiavo con le miriadi di offerte di lavoro. Poi dico, vabbè, andiamo a Bruxelles, che forse, come dice appunto Fabio, per un'opera di bene, no, in realtà appunto hanno offerto un buon lavoro. E sono ritornata. Però ecco, non è stata del tutto negativa anche la prima esperienza qui, l'ho trovata molto bene. Diciamo che se siete qua è perché comunque c'è un legame che ci lega. Io ricordo che quando Irene è arrivata col suo vestitino, io c'ero, Irene scioccata, che veniva da appunto neurolaureata, che faceva da babysitter, quindi diciamo magari il futuro in Italia in quel momento era un po' difficile, un po' complicato. Sì, diciamo stavo cercando lavoro, avrei cercato lavoro penso per altri mesi, come tutti gli altri miei amici, colleghi dell'università, insomma hanno tutti parecchie difficoltà, insomma. Poi tra l'altro noi siamo tutti laureati in economia, quindi ecco, nel senso, uno aveva scelto economia con la speranza di dire, beh, uno c'ha qualche possibilità in più, invece. Economia, soldi, no? Appunto, no, economia, soldi, invece no, manco per niente. Insomma è un po' complicato. Beh, neanche così, diciamo, magari a lavorare si lavora tutti, sono le condizioni con cui si lavora in Italia che sono appunto complicate, sì, difficili, precarie, faticoso raggiungere posti di lavoro, ti chiedono di lavorare fino a tardi per un salario assolutamente misero, quindi poi possibilità di pianificare sotto zero. Ok, una cosa a cui stavo pensando adesso è che comunque siamo un po', forse io un po' di meno di voi, però siamo un po' persone che hanno, prima di arrivare in Belgio, hanno fatto altre esperienze all'estero, e quindi forse perciò non siamo fuggiti, perché c'era, se non sbaglio, quindi Irene sei stata 6 mesi in America Latina. In Argentina. In Argentina, sì, e tu prima parlavi, Fabio, parlavi dell'Inghilterra. Sì, io sono stato un anno in Inghilterra e prima ancora 7 anni in Spagna. Sette anni? Caspita, vedi, non si finisce mai di... Dove? Non si finisce mai di conoscerlo questo qua, ogni giorno ti caccia una sorpresa. Così, dal cilindro. Che cosa facevi in Spagna? In Spagna ho fatto un po' di tutto, sono andato lì che mi hanno appena laureato, anzi in realtà ho finito di scrivere la tesi a Barcellona. Però vabbè, diciamo che andai per motivi tutt'altro che politici, lavorativi. Per imparare lo spagnolo, la lingua. Per imparare lo la lingua spagnola. Questo desiderio, diciamo, approfondire. Approfondiamo la lingua. Approfondiamo la lingua spagnola. E vogliamo approfondirla questa lingua spagnola, ragazzi? Dai. E allora approfondiamola, vi taglio questo discorso perché facciamo ascoltare ai nostri radioascoltatori un po' di musica, perché in regia qui abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi adesso li abbiamo risolti e possiamo far gustare ai nostri radioascoltatori qui su Radio Alma Brufen and Clogged Nose. Brufen and Clogged Nose di Angelo Gregorio. Sì. Contenuto nell'album Alla ricerca delle radici, Searching for the Roots, Alla ricerca delle racine. E potete trovare il trailer di questo video sul sito di Angelo, www.angelogregorio.com, come anche sulla sua pagina Facebook, perché ben presto l'intero video sarà pronto e vi assicuro che è bellissimo. Sì, abbiamo realizzato questo video con Giovanni Trotta, che è un giovane regista italiano che si sta laureando in ingegneria informatica ed è venuto qui molto gentilmente e ci ha realizzato questo ed altri video ancora. Ma io vorrei ascoltare ai nostri radioascoltatori, perché abbiamo finalmente risolto questi problemi tecnici, il nostro jingle di Radio Alma e i colori dell'anima. Fateci sapere se vi piace. Sì, era bellissimo, era Angelo. Bellissimo. Mi è piaciuto un sacco. Infatti, mi hanno appena telefonato. Ah, ok. Ho ricevuto una telefonata in cui dicono che veramente, se è possibile, vorrebbero questo jingle per tutte le trasmissioni di Radio Alma. Sentiamo un po' chi è al telefono. Eccolo, ci sei? Sì, io sono. Ti sentiamo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì. Ciao, con chi parliamo? Jean. Ciao Jean. Sono Mario. Ciao Mario. Ecco, parlavamo dell'amicizia e l'amicizia ci ha chiamato. Questo è anche l'amicizia di Bruxelles. Grazie a Marianne che non è potuta venire fisicamente, ma è con noi nello spirito. Mi piace, sì, e stiamo con un bel piatto di pasta con Andrea. Non avevamo dubbi. Sto mettendo anche un bicchiere di vino. Lo stesso. Vi ascoltiamo comunque. Maria, non ci dire queste cose che non abbiamo mangiato. Infatti era quello pure di andare alle 9. Dopo veniamo tutti a mangiare da te, Marion. Hai capito? Marion non è venuta semplicemente perché non avrebbe potuto mangiare, avrebbe mangiato alle 10:30. Marion, facciamo uno squillo e butti un altro po' di pasta dopo. Sono troppo francese, devo mangiare all'orario giusto. Marion, ma ti portavi qua un Tupperware? Non dicevamo niente a nessuno. Dobbiamo portare anche la salsiccia, il pane e il vino. Il giorno dell'amicizia non ci siete neanche portati la salsiccia e il pane. Ragione. Da voi veramente mi soffre da un po'. Sì, senti, ma il compare di panza sta là, sta con me, e ci vuole fare un salutino in maniera spontanea. Può parlare mica insieme. Qui, ciao a tutti. Ciao Andrea, bellissimo. Ciao, ciao bello. Ho fatto un piatto di pasta eccezionale con radicchiola, salsiccia. Ma è un piatto di macaroni. Purtroppo stasera non siamo lì con voi, ma voi siete con noi. Olè. Senti, compare di panza, allora mi raccomando, finisci bene questo piatto, fatti un bel litrozzo anche alla faccia nostra. No, sono però tutti gli ascoltatori. Ma io comunque pensavo che dovevamo andare a Bruxelles agli ascoltatori e non solo dire che stiamo mangiando la pasta. Com'è arrivata a Bruxelles Marion? Dai, raccontaci. A Bruxelles. Solo Marion, parla un pochino più forte. Ah, Andrea, prima, perché sei arrivato prima. Io sono arrivato a Bruxelles. Marion prende tempo. Diciamo per caso, con uno stage di Leonardo, il programma Leonardo. E lì ho incontrato Giampaolo, che è lì in trasmissione da voi questa sera. Ah, il collega amico, sei stato già definito collega amico. E al tempo stesso, però, io sono andato ad abitare in una casa in cui c'era la presentatrice. E chi è? Ma era simpatica questa. Un metro di 6 persone, Carla era nella stanza di sotto, non più. E quindi niente, poi le cose sono venute. Ormai sono 3 anni di condivisione, di gioie. E Marion è arrivata subito dopo 6 mesi, ora ve la passo. Ecco. Marion, ti sei preparata? Hai preso tempo? Andrea, finito? Che stai facendo? Ci sentiamo meglio così? Sì, sì, benissimo. Oh, ok. E quindi questa storia è arrivata dopo che con Andrea ci siamo incontrati a Parigi con un Erasmus, e dopo 6 mesi che Andrea... stavo in Italia, mi sono trasferita per Andrea in Italia. Allora, Marion, dici sei originaria di... Sono di Bretagna. Di Rennes. Ah, questa bellissima regione che verremo tutti a visitare, a casa tua. Un giorno. Ragazzi, quest'estate tutti a casa di Marion in Bretagna. Questa primavera, quest'estate andiamo al mare. Preferiamo. Guarda che c'è il mare, Giampaolo. Il mare caldo. Io mi sono trasferita dalla Bretagna all'Italia. Brava Marion, un applauso. E poi ti hanno offerto qualche posto di lavoro, ma quindi non riuscivi più ad andare via dall'Italia, vero? No, per niente, non ho mai trovato niente, dicevano che parlavo come una mucca francese. Una mucca pazza. Ma non lo so. È stato fuori, è quello. Benissimo. E quindi sono tornata in Francia e ho cercato una cosa per raggiungere quello... dall'Erasmus, che mi piaceva ancora e che mi aveva lasciato in Italia da sola, così. Grandissimo. Ragazzi, io ho da farvi una domanda che nasce spontanea. Che cosa cercate nelle amicizie qua a Bruxelles che magari a casa vostra non cercate? cercate la stessa cosa, cercate qualcosa di diverso? Fatta una domanda un po' difficile. Ah, tra Francia e Belgio? I legami che hai stabilito con altre persone qui a Bruxelles, come sono? Beh, come la famiglia. No, ma è vero, è comunque lo stesso, eppure... No, sì, di passare a casa ciascuno, quando c'è uno che non sta bene, l'altro ascolta, quando c'è una bottiglia di vino... Comunque la condividiamo. E finisce presto. Troppo. E questo è amici. Soprattutto il pane di Andrea che fa 2 chili e finisce in una sera. E quello. Andrea, hai sentito? Deciso di non farlo più, infatti. È tutto questo calore, il calore e la luminosità che non abbiamo nel cielo. E diciamolo che è bello averti come amica, Marion. Grazie. Grazie. Allora, c'è ancora altro da raccontare? Penso di no. No, allora vi auguriamo buon appetito. Grazie. Non bevete troppo che domani si lavora. E grazie della telefonata, Marion e Andrea. Un bacione forte. Ciao Andrea, ciao. Ciao. E noi ci sentiamo tra pochissimo. Questa era Shake Everything You Got della Fantomatic Orchestra, una band toscana, una marching band, è vero Carla? Sì, una marching band che è venuta a Caserta, la mia città natale, in tour per le strade nel Natale 2010 e niente, ho avuto modo di conoscere questa orchestra e ho detto, Angelo, stasera proponiamo questa musica perché assolutamente vorrei... Ah sì, l'hai detto tu, non me lo ricordo, ma comunque... Sono io che te l'ho regalato. È vero, le donne hanno sempre ragione, cari amici radioascoltatori, le donne hanno sempre ragione, vero Fabio? Sempre. Motto del giorno. Lui è il dottore. Frate Indovino diceva sempre questa cosa. Le donne hanno sempre ragione. Bene, eccoci di nuovo qui ai Colori dell'Anima, dalle 21 alle 22 in onda tutti i lunedì. Ripetiamo il nostro numero di telefono 02 345 26 56. Chiamate, chiamate, chiamate. Ringraziamo ancora Marion e Andrea che staranno finendo il loro piatto di pasta con la salsiccia. Marion, lo so che stai ridendo, attenta, attenta. Non ti strozzare. E niente, parlavamo delle tecniche di sopravvivenza dell'italiano all'estero, l'italiano che cerca di sopravvivere a questo tempo uggioso. E oggi, venendo qua, il pleuviné, c'era una pioggerella sottile che ci bagnava i capelli e ci faceva ricordare che la primavera si avvicina. Ebbene, cercando un po' di ottimismo nelle relazioni con i nostri amici, vi ricordiamo che abbiamo Fabio, Irene e Giampaolo qui con noi, che ci hanno raccontato come sono arrivati a Bruxelles, la capitale d'Europa, come il volontariato li abbia portati qui a Bruxelles, gli scopi nobili, e come abbiano rinunciato a numerosissimi contratti in Italia. Ebbene, cedo la parola a Fabio che aveva qualcosa da raccontarci, ma che non ha avuto il tempo. Rimasto attonito, attonito. Ho fatto il vago, no? Approfittando della pausa musicale per diciamo cercare di glissare su aspetti poco chiari del mio passato. Dov'eri la sera del 27 agosto 2007? Stavo bevendo del vino in compagnia di amici, probabilmente. Che non erano questi? Che non erano questi, no. Perché non ti trovavi a Bruxelles? Ero a Barcellona. Sì, una città, diciamo, molto simile a Bruxelles per clima, certo. Diciamo, abitudini, architettura, lingua. Molto simile. Che tu hai studiato in maniera approfondita. Ma è, diciamo, venendo dal liceo linguistico, non è vero, però è una predisposizione, un interesse, diciamo, circoscritto a un certo periodo, ecco, non diciamo, insomma, un interesse sociologico. Allora, diciamo così. Un evento particolare che porterai sempre con te di Barcellona, a parte la lingua famosa della tua fidanzata. ex fidanzata. Attenzione, non mi uccidetemi, prego Raffaella, scusa, che qualcuno ti può inseguire e uccidere. Perdono, venia. No, una cosa sempre mi ricordo sempre, io beh, condividevo il mio appartamento con Saul, un ragazzo colombiano con cui diciamo che siamo veramente fratelli, e lui quando mia madre mi chiamava per Skype e diciamo appunto si lasciava in affermazioni melodrammatiche. Ma non mangi, te vedo secco perché così è che c'è il frigorifero, eccetera, eccetera. Io cercavo di scappare da tutte le parti, lui invece rimaneva estasiato perché, non avendo la famiglia vicino, aveva preso la mia famiglia come la sua famiglia. No. E infatti quello che è successo è che spesso lui tornava a Nettuno più spesso di quanto non andassi io. In me non mi vedevano. Genitori adottivi. Come si chiamava questo ragazzo? Si chiama ancora? Saul, adesso è in Australia. Ok, vabbè, non lo salutiamo perché le vie di Radio Alma non sono Saul. Ma magari non si sa. È un episodio dell'Argentina che Irene non potrà mai dimenticare? Ma diversi, forse i viaggi che ho fatto, diciamo che c'era molto più incentivo ad andare in giro. E quindi spesso prendevamo il Cochecama, passavamo anche 20 ore sul Cochecama, che è un pullman dove puoi dormire, ti portano da mangiare. Cochecama è autobus letto. Okay. Però non coce, no. No, cociono invece i pasti. Mamma Carla, che battute. La verità, l'ho studiato. C'eravamo messi d'accordo. No, devo dire, quando sono stata alla penisola Valdessa a vedere le balene, quello forse è il mio ricordo più. Se pensa a una cosa, pensa a quello. Al tramonto ci hanno fatto questo regalo di uscire adesso, fuori con la coda. E adesso capisco una delle tue opere d'arte, no? Sì, a parte gli scherzi. È vero, sì. Nell'estate, appunto, quando Irene era appena arrivata qua a Bruxelles, ci siamo dilettati in un pomeriggio a dipingere. Infatti, perché mi ricordo che facemmo quell'incontro. Dove invitammo un sacco di gente, comprammo delle tele bianche e dipingemmo le nostre emozioni. E quello di Irene, appunto. E da lì che ho incontrato Giampaolo, poi. Ah, a parte no, l'avevo incontrato già prima sul marciapiede di fronte all'ufficio, però, quando pensavo dico fuggo, tra 2-3 giorni me ne vado in Italia, non torno mai più, invece sono tornata. Giampaolo, penso che dovresti precisare qualcosa a questo punto. No, quello è stato un incontro particolare perché avevo incontrato Irene qualche giorno prima a casa di Andrea, nel cortile di casa d'Andrea. Ero tornato da poco dalle vacanze estive e, come ogni anno, il periodo immediatamente precedente e quello immediatamente successivo alle vacanze estive è un periodo di grande depressione. Esatto, per me. E quindi lei, incontrandomi i suoi primi giorni a Bruxelles, vedendomi in quello stato, ha detto: vabbè, io scappo subito dalla città. No, l'ho pensato per davvero. Ci si riduce in queste condizioni, sì. Vuol dire che ci sarà qualcosa che non va. E invece poi, fortunatamente, rimasta qui a Bruxelles, cercavo una stanza e, guarda caso, guarda in quel periodo in casa mia si liberava una stanza, e quindi lei ha preso quel posto lì. E poi, insomma, poi è arrivato l'amore. Tormentato all'inizio, molto tormentato, come tutte le mie cose. Però va bene, però poi c'è stato il lieto fine, e quindi niente, ora stiamo insieme da poco meno di un anno. Festeggerete il primo anniversario, che quando? Il 10 giugno. Vista Visterene, se ricordate. Sai perché? Il 10 giugno, no, fatti una domanda, perché se lo ricorda? Infatti io consiglio a tutte di approfittare, scegliete un giorno che se lo ricorda, tipo scudetti, cose così, almeno fanno associazioni e se lo ricorderanno. Cioè, è una strategia. E sullo scudetto lanciamo un nuovo brano. Tra i nostri radioascoltatori avranno capito che la nostra strumentazione questa sera non funziona e quindi metteremo un solo disco! Della Fantomatic Orchestra! E abbiamo in linea Chiara e Matteo! Ciao Chiara, ciao Matteo! Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori! Ci sentite? No. Sì. Noi sì! Ah, ok, anche noi! Pronto? Sì, anche noi vi sentiamo. Grazie di aver telefonato. A che dobbiamo questo piacere? Ma ci siamo detti che bisognava dimostrare agli ascoltatori di Radio Alma che l'Italia non parte dal Po e va in dal giù, Rubicone. Ma inizia anche un po' più in alto, dalle Alpi. Dai, grande Chiara, grande Matteo. Confermo. Così rappresentiamo l'Italia intera. Che voce diplomatica che ha Matteo, eh? Allora, diteci un pochettino, giusto per precisare i confini dell'Italia. Perché precisiamolo, anche voi siete una coppia. Certo. Che si è conosciuta a Bruxelles? No. Sì. Sì? Sì. Hai visto Bruxelles? Grande. Il cuore solitario di questo mondo. Ormai 4 anni fa a Bruxelles, ormai è anche cosa vecchia. Dai, hai visto che Bruxelles fa anche questi bei doni? Ragazzi, mi stavate dicendo che siete davanti a una pizza. Abbiamo appena terminato, ci siamo detti che era il momento giusto, una volta che la bocca non era più piena, di poter chiamare. Ma potete anche chiamare mentre mangiate, non ci sono problemi. Infatti. Ma soprattutto perché voi non avete ancora mangiato, era anche per... Esatto, esatto. Senti, e com'era la pizza? A che gusto? Ma era una pizza vegetariana, da una parte tutte le verdure praticamente, e l'altra pizza... Ma diciamo che l'abbiamo mangiata perché ci si stava scongelando tutto nel freezer. e allora era congelata, non l'avete fatta voi? No. Purtroppo no. Le capacità purtroppo non ci sono. Senti. Dimostra il fatto che noi siamo nordici. Beh, ma non ne mangiamo anche io e Angelo. La bagna cauda, la grolla è buonissima, su, dai. Piemontese, quindi farla mangiare a un lombardo è difficile. Ma quelli lombardi, che te ne fai dei lombardi? I lombardi non capiscono niente. Meglio i piemontesi. Facciamo arrabbiare Matteo. Scherzo, ovviamente scherzo. Senti, ritornando alle pizze, vogliamo parlare della pizza Hawaii che si trova qui nei supermercati. Quella ananas, ma io sì, non ho capito. Cioè, è stata inventata in Lombardia, è vero Matteo? Sì, infatti, solo tanto per far del male ai napoletani. Senti, ma dillo, gli ananas crescono in Lombardia? Cioè, abbiamo coltivazioni intere di ananas tra il... rigogliose. Soprattutto di banane, le banane di Milano. Le banane di Milano sono note in tutto il mondo. Famosissime, le coltiviamo sia in serra ma particolarmente all'aria aperta perché ci sono dei concimi chimici che vengono utilizzati dalle nostre parti. Oh Matteo, era una battuta, ma tu ve la fai? Wikipedia prima. Grandioso. Allora noi dobbiamo anche dire che Matteo è il nostro grande tenore del coro della chiesa di San Bonifacio e della comunità italiana cattolica di che è un elemento cardine di questo coro. Senza lui cade tutto. Tutto. Soprattutto senza Angelo, perché no. Non avrei neanche tentato di provare. ragazzi, noi, e anche Chiara. Noi, chiaro, tutti quelli che ci stanno ascoltando, noi vi ringraziamo tantissimo per questa telefonata. Noi siamo quasi in chiusura, quindi vi salutiamo, vi diamo un abbraccione. E restate sempre qui sintonizzate perché c'è una sorpresa verso la fine. E vi ringraziamo ancora e buona serata, ragazzi. Grazie, Chiara, grazie, Matteo. Ciao, ciao, vi abbracciamo. Ciao, eccoci, ritornati in studio. Carla, siamo ritornati in studio. Sì, buonasera di nuovo dai colori dell'anima. Rimarremo ancora con voi fino alle ore 22. E questa serata è stata super varia dal punto di vista musicale. Avete ascoltato tutti i brani del nostro CD della Fantomatic Orchestra, ma anche Brufen and Clog Notes di Brufen Angelo Gregorio, Clog, sì. Di cui sarà prestissimo pronto il nuovo clip realizzato da Giovanni Trotta, un regista campano del Cilento, che ha fatto un'opera veramente, un'opera d'arte, addirittura ha valorizzato Bruxelles. No, non offendiamo Bruxelles, che è una bellissima città però veramente ha messo in valore degli angoletti, delle piccole opere artistiche che magari sono trascurate. E mettiamo in valore anche i nostri ospiti che si sono prestati gentilmente qui a venire questa sera a Radio Alma a stomaco vuoto e a parlare dell'amicizia. L'amicizia... Devo fare una confessione. Non tutti a stomaco vuoto. Secondo me Irene ha mangiato. Mi sono assicurato il pensiero. Già Paolo, la prima cosa che mi ha detto è andiamo, però dobbiamo mangiare prima perché io c'ho fame, quindi... siamo andati da mamma, possiamo fare pubblicità, vabbè, da in un posto a mangiare un po' di pizza. E tra l'altro c'ero stata soltanto forse un anno fa, non c'ero mai. È buona la pizza lì. Sì, però è unta. Questo è l'avevamo d'olio. Esatto, naviga dell'olio. Si può fare la pubblicità negativa, sì. E la facciamo meglio a casa nostra, infatti la sarete tutti. Irene è grande pizzaiola. Però, c'è anche da dire che queste persone che hanno questo esercizio danno la possibilità a chi non conosce proprio la pizza di poterla gustare, ecco. E quindi c'è sì, anche da dare atto di questo. Soltanto io e Giampaolo, gli italiani, poi erano tutti, diciamo, si sentivano tutte le lingue intorno a noi, questa è la cosa bella di Bruxelles, certo. Alla fine. Giampaolo, è da un po' che te lo volevo chiedere, ma tu? La pizza, come la mangi? Con la forchetta e il coltello o con le mani? No, io non sono un ragazzo forchetta e coltello. Noi diciamo ragazzo cucchiaio. Quando alla pasta la mangio sempre col cucchiaio, a meno che non si tratti di spaghetti. Però come si dice da noi, quando un ragazzo non è tutto sempre bello, posato, ordinato, eccetera, si dice... che non è un ragazzo forchetta e coltello. Io non sono un ragazzo forchetta e coltello, nel senso che la pizza la mangio con le mani, il pollo lo mangio con le mani e non mi vergogno di farlo davanti a nessuno. È una domanda, il riso lo mangi col cucchiaio o con la forchetta? Col cucchiaio. E i tubetti? Col cucchiaio. Irene? Tutto, anche le penne, i rigatoni. Tutto col cucchiaio, sì, sì. E non finisce troppo velocemente? No, piano, lui con calma. Fabio. Come il resto, come tutto il resto, con calma. Fabio? Con calma. Vabbè, allora, Fabio, diciamolo, però... diciamo che Fabio ti mette in difficoltà a tavola, perché tu sei già al dolce e lui sta lì a mangiare ancora l'ultima penna, dici ma forse dovrei un po' rallentare, e lui bello, con calma, e infatti è un figurino. È il segreto della sua linea. Noi tutti obesi per evitare e Fabio, infatti, grandioso. Ma perché cucinai talmente bene che non voglio finire presto, me la voglio gustare, rimasticare, di assaporare. Poi vedo 18 occhi su di me e certo ma forse sarebbe il caso. Ti accelerare un attimo, però lo so, però dicono anche monaci zen che bisogna... insomma, mangiare lento facilita la digestione, il buon umore pure. E il vino lo metti nel bicchiere quello col calice o quello normale, diciamo, d'acqua? Dipende dalle occasioni. Diciamo che quando ci vediamo noi, soprattutto quando facciamo delle prove, del riso, patate e folk, e diciamo le prove finiscono sempre con una mangiata e una bevuta, i calici non esistono. Diciamo perché... che questa sera il vino l'abbiamo messo in questo calice splendido dell'amicizia che si è formata e ha preso forma qui a Bruxelles e perdurerà in eternità col nostro disco che qui abbiamo in solo ed unico, perché tutta l'altra strumentazione ci ha abbandonati, autodistrutta. E noi vi ringraziamo di essere stati assieme. Noi vi ringraziamo a Marion, Andrea, Fabio, Irene, Giampaolo, a Chiara, a Matteo e a tutti gli altri che sono stati all'ascolto, ma soprattutto a Rosanna. Grazie di avermi invitata, buonasera a tutti. Questa era una bugia, è lei che ci ha invitato a noi e ci ha dato questa splendida possibilità. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. E Carla, chiudi tu. Bene, come l'uomo, come animale sociale, non può vivere da solo. Se vive da solo, si butta da una finestra. Perciò stringiamoci stretti e con l'affetto e con i legami come quello meraviglioso dell'amicizia, facciamoci forza nei momenti belli, ancora di più in quelli brutti anche. E niente, che la comunità non solo italiana ma anche straniera, la comunità internazionale di Bruxelles ci ha così bene accolto, perché questo paese è così aperto e accogliente. E arrivederci. E arrivederci.